Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi celebriamo il teatro, il grande teatro italiano scritto tutto maiuscolo, teatro che ha conosciuto grandi interpreti, alcuni dei giganti, e ha conosciuto grandi stagioni straordinarie. E proprio un anno fa, il 28 maggio 2016, se ne andava quello che è stato definito da tutti l'ultimo grande imperatore del teatro italiano. Insomma, stiamo parlando di qualcuno che ha fatto veramente la storia del teatro. Il nostro protagonista è un grandissimo attore, un interprete straordinario, un fine dicitore, un grande regista, uno dei primi divi televisivi, comunque della nascente televisione italiana. Ha esordito nel 1954, quando la televisione aveva iniziato da pochi giorni la sua programmazione. Insomma, è un volto che è entrato nelle case di tutti negli anni in cui c'erano solo quei programmi lì, solo un canale, per cui tutti, ma proprio tutti, lo conoscevano. Noi rendiamo omaggio anche a un uomo che ci ha accompagnato per tanti anni, che ha contribuito a rendere l'Italia un po' più colta, a fare conoscere i classici, a far parlare nei bar di argomenti profondi la mattina dopo che magari erano andati in onda i suoi programmi, ma anche la sera stessa, perché in quegli anni la televisione l'avevano in pochi, si andava proprio nei bar a vederla. Oggi parliamo dell'immenso Giorgio Albertazzi, protagonista della nostra scena teatrale, televisiva, cinematografica per oltre 60 anni. Ascoltatelo in un classico. Vogliamo partire subito alla grande con il celebre monologo di Amleto, ma ascoltate lui come interpretava questo monologo. Est o non est? E questo è il problema. Se sia più nobile sopportare il peso, gli sberleffi della malasorte, oppure davanti a questo mare di infelicità rifiutarsi, dire no. Prendere un'arma e finirla. Morire. Dormire. Nient'altro. E in quel dormire, placare gli spasimi del cuore, annegare tutte le infinite miserie di cui è schiava la carne. Ah, questa sì è una consolazione da invocare devotamente. Morire, dormire. Forse sognare. Ecco il punto. Che sogni faremo di là? Capite che qua il livello è altissimo, non ci sono aggettivi sufficienti per definire la grandezza interpretativa di Albertazzi. Tra l'altro lui negli ultimi tempi, a 80-90 anni, recitava ancora perfettamente, ricordava tutto a memoria senza esitazioni. Pensate che oggi ci sono un sacco di cantanti che le loro quattro parole bruttine delle canzoni le leggono dal gobbo. Ecco, lui ricordava tutto e amava dire che non recitava più, ormai le parti che interpretava facevano parte di lui. Diceva proprio così, parlando di sé in terza persona: Albertazzi non recita più, Albertazzi vive. Una vita per l'arte, una intera esistenza dedicata al teatro, alla televisione, al cinema, a interpretare ruoli tra i più diversi, ma non solo a interpretare, a far vivere i suoi personaggi. Lui era capace di farli emergere dai testi, anche dai testi più ostici, più classici, più difficili dal punto di vista del linguaggio. Lui aveva quella capacità di renderli reali, quindi di renderceli vicini, anche attraverso una recitazione che poteva anche essere a volte enfatica, ma mai altisonante, mai ridondante. E allora addentriamoci nella vita di Giorgio Albertazzi, una vita per fortuna molto lunga, segnata da tanti avvenimenti, tanti successi, interpretazioni entrate nella storia. Non riusciremo a raccontarvi tutto, sarebbe impossibile, ma proveremo a tracciare di lui un ritratto il più possibile completo. Giorgio Albertazzi nasce il 20 agosto 1923 a Fiesole, in provincia di Firenze. Era toscano, la sua toscanità ha significato tantissimo nella sua professione, perché già il fatto di nascere nella patria della lingua italiana lo influenza moltissimo. Ma c'è anche un altro dato saliente della sua biografia che avrà un peso nella sua formazione, nella sua propensione alla bellezza e all'arte. E lui, per via del lavoro del nonno Ferdinando, cresce nella Villa Itatti, una villa di proprietà dello storico dell'arte Bernard Berenson, grandissimo esperto di fama mondiale, quello che aveva contribuito alla definizione di Firenze come città culla dell'arte. La sua villa, Villa Itatti, diventa uno dei centri più importanti della comunità anglosassone fiorentina, della cultura in generale. Lì vicino c'è un'altra villa famosa, la Capponcina, dove aveva abitato D'Annunzio e dove spesso il piccolo Giorgio va a giocare. E c'è poco da fare, quello che si respira da piccoli rimane. Giorgio Albertazzi fin da bambino vive immerso nella bellezza, circondato dall'arte, dalla cultura. Questo lo porterà a proseguire in quella stessa direzione per tutta la vita. Il falco e il gabbiano. Giorgio Albertazzi vive un'infanzia dorata, circondata da gente colta, grande bellezza, anche se non è di una famiglia ricca. Il padre lavora nelle ferrovie, però cresce in una situazione privilegiata, frequenta il liceo classico, l'università a Firenze e poi si laurea in architettura. Però da quando è al liceo lui già attira l'attenzione, non solo per la sua eleganza, per quella cultura che possiede quasi inconsapevolmente, ma anche perché è molto bello, è di una bellezza classica, ha una voce suadente meravigliosa. Al liceo comincia a calcare il palcoscenico. Stiamo parlando di teatri scolastici, rappresentazioni amatoriali, ma per la prima volta si evidenzia un'altra grande passione che Albertazzi nutre, che avrà fino alla fine dei suoi giorni. Lo racconta lui stesso, il vero motivo per cui ha iniziato a fare teatro. La prima volta che qualcuno mi disse perché non vieni a recitare, era quella ragazza che aveva qualche anno più di me, cioè io ero al liceo, lei stava all'università, avanza avanti, e a Settignano c'era un teatrino che lei in qualche modo dirigeva, così, un teatro amatoriale, e mi disse: ma tu sei Albertazzi, sì, lo diceva mio padre, figlio di Albertazzi, sì, perché non vieni a Settignano a fare il teatro? E io dissi subito di sì, perché era bella. Qualunque cosa mi avesse detto, perché non viene a fare una rapina, sarei andato. Ed ecco un'altra grande passione insieme al teatro, la passione che Albertazzi ha avuto per tutta la sua vita, un grande amore per le donne. Lui ha sempre dichiarato di non essere un conquistatore, non gli interessava il numero delle sue conquiste, però amava la bellezza femminile come pura espressione. In più occasioni ha dichiarato che ogni fatto artistico della sua vita è stato ispirato da una presenza femminile. Ha avuto relazioni con diverse donne dello spettacolo, grandi attrici come Bianca Toccafondi, la grande Anna Proclemer, Elisabetta Pozzi. Abbiamo avuto anche una fidanzata in comune, la bellissima Mariangela D'Abraccio, in tempi diversi ovviamente. E poi si è sposato una volta sola, 84 anni, nel 2007, con Pia de Tolomei, discendente dalla omonima nobildonna di dantesca memoria. Pia de Tolomei, che aveva 36 anni meno di lui. È una scelta anche questa che la dice lunga, intanto sulla sua vitalità, ma anche sul suo fascino, perché Albertazzi non è mai stato un uomo ricchissimo o un potente, quindi non si tratta del ottantenne che va con una giovane per trarne dei vantaggi. Qui vuol dire che a 84 anni sai ancora affascinare una donna che ha 36 anni meno di te. Chapeau. Ascoltate cosa ha detto in un'intervista non tanti anni fa, però era già grandicello. Io ho detto una frase che poi è stata ripresa da molti, che però forse fa un po' scandalo, ma sono anarchico come tendenza naturale, e non dico che Dio non esiste, però dico anche che dire Dio esiste mi sembra un po' azzardato. Io non l'ho mai visto, non l'ho mai sentito, non so, ci vuole la fede, no? Però certo che le cosce delle donne sono una prova dell'esistenza di Dio. Spesso Albertazzi ha rilasciato dichiarazioni che hanno fatto discutere. Questa sulle cosce delle donne ha fatto scandalo, ma è una battuta che io sottoscrivo. Ha fatto discutere anche per le sue scelte politiche durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, scelte che hanno influenzato tutta la sua vita successiva, anche quella artistica, perché lui nel 1943 aderisce alla Repubblica di Salò a 20 anni, è meglio ricordarlo. Diventa sottotenente nella terza compagnia della Legione Tagliamento. Nel 45, dopo la fine della Repubblica Sociale Italiana, viene arrestato, viene accusato di avere comandato a Sestino il plotone di esecuzione di un disertore dell'esercito di Salò e poi partigiano. Per questi reati viene condannato, passa 2 anni in carcere alle Murate di Firenze e poi è in carcere a Bologna e a Milano. Viene liberato nel 1947 per la famosa amnistia Togliatti, che era un provvedimento di condono delle pene legate soprattutto al collaborazionismo che era stato proposto da Palmiro Togliatti per spingere alla pacificazione nazionale. Questa sua partecipazione attiva alla Repubblica di Salò però lo farà sempre dipingere dai suoi denigratori come un fascista, un assassino. Lui ne ha parlato più volte durante le interviste. Il vero assetto politico, cioè quello che mi ha esaltato e che mi ha fatto dire sì alla Repubblica, era D'Annunzio e Fiume. Per noi, per me, quella impresa di Fiume era una cosa straordinaria. Era questi qui che vanno volontari, che hanno il coraggio di mostrare il petto e le armi avversarie, che occupano Fiume, dicono che quella è Italia, che la Dalmazia è Italia. Quello mi sembrò una cosa, la carta del lavoro, la marcia su Roma nasce lì, non ha invenzione di Mussolini. Le lettere di D'Annunzio a Mussolini sono qualcosa di terribile. Vigliaccoli, dice così, dice delle cose così, sei un vile, non hai il coraggio di prendere posizione. Allora io penso che se si fosse verificata quello che pensava D'Annunzio, e cioè la Repubblica, D'Annunzio Presidente della Repubblica e Mussolini capo del governo, sarebbe stata un'altra Italia, un'altra storia del paese. Questa è un'analisi corretta, comunque io la stracondivido. Comunque Albertazzi ha avuto molti nemici, perché è stato un uomo che ha preso posizione e ha sempre preso la posizione meno comoda, e quindi insomma in Italia queste scelte si pagano care. La sua partecipazione a Salò gli ha impedito di ottenere ruoli ai quali lui avrebbe tenuto moltissimo. Questo è un paese molto vendicativo. Per esempio lui è stato per un certo periodo direttore del Teatro Stabile di Roma, ma non gli hanno mai concesso di essere direttore del teatro a Firenze, anche perché insomma le giunte di Firenze non sono sempre state di una certa parte. Questo per lui è sempre stato un dolore, perché l'ha percepita giustamente come una ingiustizia. Ma torniamo agli anni del dopoguerra. Albertazzi si laurea dopo la scarcerazione, si laurea in architettura, ma comincia a recitare, impara dai grandi del teatro, dai mostri sacri dell'epoca, Renzo Ricci, Memo Benassi, e poi recita nei fotoromanzi che andavano moltissimo, si fa conoscere in ambito teatrale dove le sue doti non passano inosservate. Nel 49 esordisce in teatro, ma non è un esordio qualunque, è un inizio alla grande, al Maggio Musicale Fiorentino, la più prestigiosa manifestazione artistica organizzata a Firenze. Recita nel Troilo e Cressida di Shakespeare per la regia del grande Luchino Visconti, una presenza straordinaria che è l'inizio di una carriera impossibile da definire in poche parole, per densità, profondità, anche per longevità. Il falco e il gabbiano. Stiamo celebrando la vita, l'arte di uno dei più grandi attori interpreti della scena teatrale, cinematografica e televisiva italiana di sempre, ma direi anche della scena internazionale, Giorgio Albertazzi, che esordisce in teatro nel 49 e da quel momento non abbandonerà mai più le scene fino alla sua morte, avvenuta il 28 maggio 2016 a 93 anni. 60 anni di carriera straordinaria, ininterrotta anche in televisione, al cinema, caratterizzata da interpretazioni magistrali, entrate nella storia, che ne fanno un interprete unico e rappresentativo del nostro teatro. Molti alla sua morte l'hanno definito l'ultimo imperatore del teatro italiano. Lui ha sempre saputo esaltare il teatro italiano con la sua arte. E lui ha una carriera artistica che si sviluppa parallelamente tra teatro, cinema e la televisione, che era nata 26 giorni esatti prima di quando lui era entrato in scena, siamo nel 54, insomma è uno dei padri fondatori. Inizia con un programma che si chiama La prosa del venerdì, dove tutti i venerdì sera propone al pubblico un'opera classica. Parte con Romeo e Giulietta di Shakespeare e l'anno dopo si inaugura la trasmissione Appuntamento con la novella, diventa un programma fisso della TV italiana, è un enorme successo. L'abbiamo detto, in quegli anni la RAI è straordinaria, realizza programmi, sceneggiati storici, meravigliosi. E sì, è inutile girarci attorno, e io non credo che la gente sia ancora matura per scegliere tra 100 canali. Allora c'era un canale solo, tu guardavi Karamazov o guardavi L'idiota di Dostoevskij, e il giorno dopo al bar la gente parlava dei Karamazov. Con l'offerta che si moltiplica è scesa la qualità, e adesso la televisione spesso, insomma, fa leva sugli aspetti più beceri del nostro carattere, sulla parte peggiore di noi. Ma è gli anni anche la parte leggera era di grande qualità, penso per esempio a Carosello, dove partecipavano grandi attori, grandi cantanti. Anche Albertazzi fa Carosello, di una pasta, però ascoltate che tipo di intervento è il suo. C'è una poesia d'amore che ho conservato viva nella memoria fino dall'adolescenza. Dante Alighieri la dedicò nella Vita Nova a Beatrice, ed è in effetti il più alto madrigale che sia mai stato scritto. Contiene tutto lo sbigottimento, l'estatica ammirazione che soltanto una creatura celeste può suscitare. Tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia, quand'ella altrui saluta, ogni lingua divien tremando muta, e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella sen va, sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra, a miracol mostrare, e mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al core, che intender non la può chi non la prova, e par che dalla sua labia si muova uno spirito soave pien d'amore, che va dicendo all'anima sospira. Ecco, questa era una pubblicità, e alla fine di questa performance si diceva è offerta da questo, da quel prodotto. E intanto alle 9 di sera gli italiani avevano sentito un sonetto di Dante recitato da Albertazzi. In questo periodo inizia la stagione dei grandi sceneggiati televisivi della RAI, ne abbiamo parlato, ne parlavo anche prima, c'erano Luigi Vannucchi, Gian Maria Volonté. A proposito di Volonté, nel 59 Albertazzi, che ha già partecipato a diversi sceneggiati come Delitto e Castigo di Dostoevskij, Gli spettri di Ibsen, Piccolo mondo antico di Fogazzaro, realizza un capolavoro, scrive la sceneggiatura dell'adattamento televisivo dell'Idiota di Dostoevskij. Lui si tiene per sé il ruolo del protagonista, il principe Mishkin. Nel cast c'è Anna Proclemer, la compagna di Albertazzi, e poi c'è un quasi esordiente Gian Maria Volonté che recita nel ruolo di Parfen Ragoghin. Insomma, ascoltate il ricordo di Albertazzi. L'idiota di Dostoevskij, che era stato scritto e adattato per la RAI da me, L'idiota ebbe 13 milioni, 14 milioni, 16 milioni di spettatori all'epoca, vuol dire l'Italia. L'Italia che guarda la TV, con L'idiota di Dostoevskij, con tutto il rispetto per l'asce raddoppia. Gian Maria credo che sia nato con L'idiota di Dostoevskij. È nato il suo aplomb di attore, è nata la sua immagine d'attore. E anche la carriera cinematografica di Albertazzi conosce momenti molto alti, film del neorealismo come Uomini ombra di Francesco De Robertis, e poi la voce narrante delle Notti bianche di Luchino Visconti, poi l'enigmatico protagonista del film di Alain Resnais l'anno scorso a Marienbad. Insomma, una trentina di film. Poi c'è Vita di Dante, Ti ho sposato per allegria di Salce, L'assassino di Trotsky di Lucey. Però il luogo della sua massima espressione artistica è comunque il teatro. Nel 64, in occasione del 400° anniversario della nascita di Shakespeare, lui esordisce a Londra nello storico teatro Old Vic con Amleto, diretto da Franco Zeffirelli, sempre con Anna Proclemer. per andare nella patria di Shakespeare a recitare la sua opera più famosa davanti a un pubblico selettivo come quello dell'Old Vic, che poi è il soprannome del Royal Victoria Hall, la sede storica d'eccellenza delle compagnie shakespeariane inglesi, bisogna essere un numero uno. Albertazzi, Zeffirelli e la Proclaimer vanno, gli inglesi forse ne stanno parlando ancora. Lo spettacolo è un successo tale che Albertazzi viene premiato con un riconoscimento straordinario. La sua foto viene posta nella galleria dei grandi interpreti shakespeariani del Royal National Theatre, l'unico attore non di lingua inglese. È una soddisfazione, insomma, immensa. Shakespeare è l'autore che Albertazzi ha amato di più, che lo ha fatto riflettere. Ascoltate questa dichiarazione di Albertazzi, risale a poco prima della sua morte. La vita è un gioco praticamente. Secondo Shakespeare è un gioco abbastanza tragico alla fine, però lui se l'è spassata in fondo. Ha scritto delle cose meravigliose, è un genio assoluto. Però dice tomorrow, tomorrow, tomorrow, dice Macbeth. E la vita è un gioco di un buffone, è un buffone che straparla. Però lo dice con umorismo, forse è anche vero, diamo importanza a cose che non ne hanno. Vedo della gente che si dispera, uccide, questo femminicidio che è rivoltante, ributtante, oltraggioso. In questo momento in cui il mondo andrebbe dato alle donne, perché il maschio è sotto sforzo, affaticato, arido, e la donna invece è una finestra aperta nel buio. Il grande pubblico televisivo italiano ha conosciuto, ha identificato, ha anche temuto, ha amato Albertazzi, forse soprattutto per uno dei capolavori della Rai degli anni d'oro. Siamo nel 1969. Albertazzi scrive, dirige e interpreta lo sceneggiato Jekyll, tratto dal libro Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson. Patterson, cosa credi che sia il male? Questo essere familiare e diabolico col quale mi identifico. Perché è una sintesi del male e non un superuomo? Forse perché l'uomo fatto dall'uomo non può essere che l'espressione della parte più bassa della natura umana. La spiegazione è alla base stessa del mio essere. Come fine delle mie ricerche scientifiche non mi sono mai posto il bene, ma la mia concupiscenza. La droga, infatti, non è discriminante, non è né diabolica né divina. Apre semplicemente le porte alla mia vera natura. Albertazzi ha avuto una carriera pienissima, è impensabile riuscire a citare in una sola puntata tutte le cose meravigliose che ha fatto. Ricordiamone qualcuna: alla Scala di Milano ha interpretato Edipo Re di Sofocle in una edizione rimasta storica con la regia di Giorgio Dellullo; alla Fenice di Venezia ha curato la regia e l'adattamento del Peer Gynt di Ibsen con le musiche di Grieg; ha collaborato con la grande Giuni Russo, con Franca Rame e Dario Fo; ha letto il canto di Ulisse dalla Divina Commedia di Dante alla cerimonia di apertura dei 20° Giochi Olimpici Invernali di Torino nel 2006. Però forse una delle interpretazioni che lui ha amato di più, assieme alle opere di Shakespeare, è stato il libro di Marguerite Yourcenar, Memorie di Adriano, che descrive la storia fino alla morte dell'imperatore romano Publio Elio Traiano Adriano. E l'interpretazione che Albertazzi ha dato di questo libro, che spero abbiate letto, è sublime, rispecchia in molte parti quello che era il suo pensiero. Adesso che lui ha terminato la sua parabola terrena, c'è un brano, un monologo che ascoltato oggi sembra proprio perfetto, quasi scritto appositamente per lui. La memoria della maggior parte degli uomini è un cimitero abbandonato dove giacciono senza onori morti che essi hanno cessato di amare. Mi rallegro che il male mi abbia lasciato la lucidità fino all'ultimo, di non aver dovuto subire l'oltraggio dell'estrema vecchiezza, quell'indurimento, quella rigidità, quell'inerzia, quella mancanza atroce di desideri. Fino all'ultimo Adriano sarà stato amato d'amore umano. Un istante ancora. Guardiamo insieme le rive familiari, le cose che certamente non vedremo mai più. Cerchiamo di entrare nella morte ad occhi aperti. Spero di aver reso onore a uno dei giganti non solo del teatro ma della cultura italiana, e nel ricordare un periodo nel quale quelli che diventavano famosi erano persone così, erano persone che sovrastavano gli altri e non semplicemente venivano notati per il famoso quarto d'ora di celebrità. A questo proposito i colpi d'ala sono stati veramente centinaia. Se volete mandare dei commenti, segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, scrivete al nostro sito www.radio24.it, ai miei social, ai nostri social, Facebook, Twitter, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.